e poter mancare il nostro idolo, e fa male. Oggi ci tenevamo più del solito a fare una grande prestazione, a fare risultato per lui, per tutta la città che sta soffrendo questa perdita, e dedichiamo la vittoria a lui. Dobbiamo convocare la banda. Tutti convocati di Carlo Genta e Pierluigi Pardo. Nello spogliatoio abbiamo fatto una videochiamata con il mister, è un lavoro che lo vede a capo di questo gruppo, siamo davvero felici per i risultati ottenuti, c'è la voglia di restare in alto. Bisogna essere tutti uniti, compatti, e quando c'è la barca in tempesta, salire tutti sulla barca ed essere pronti a remare tutti nella stessa direzione, senza lasciare che affondi l'allenatore, ecco, o qualche calciatore. It's about to get crazy. It's about to go down. It's about to get crazy. It's gonna be loud. Che siamo dipendenti solamente noi adesso di Cristiano Ronaldo, un giocatore importante, è normale poi che ti faccia vincere le partite. Capita a volte che non c'è, quindi dobbiamo migliorare soprattutto in queste partite. Non eravamo prima di questa partita il meglio del mondo, e dopo di questa partita non siamo il peggio del mondo. Ha avuto la normal coraggio per affrontare una squadra come Napoli. Mi piace l'atteggiamento che ho visto oggi, tutti quanti si aiutano, tutti quanti rincorrono l'avversario, sbaglia un compagno, grandi applausi, non dei grava a fanculo, a me mi piace questo, se l'ho fatto male io, ma per vincere le partite c'è bisogno non solo della tecnica, anche di questi, ne prendeva? Di queste cose che ho spiegato fino adesso. It's about to get crazy. Weekend tutt'altro che banale di campionato, per mille ragioni, i vostri WhatsApp vocali li voglio, vorrei. Facciamo così, 349-238-6666, mi piacerebbero molto. Numero verde per le telefonate 800-24-0024. Ciao Pierluigi Pardo. Ciao, ciao, ciao. Hai ideato Radio Tweet? Sì, ed è dedicata a quei 28 secondi di fuga dalla morte di Grosjean. L'ho visti ieri perché ero a San Siro, quindi li ho visti ovviamente dopo. E insomma, sappiamo che il rischio è insito, no, nella natura di chi fa motociclismo, di chi fa automobilismo, una sorta di cosa che si dà per scontata, però sì. Poi alcune volte la vita è veramente sorprendente, è veramente incredibile, lo può essere nel bene o nel male, vedere come una frazione di secondo, qualche secondo, l'intervento di una persona o di una serie di persone, la tecnologia, la prontezza, il fatto di essere un centimetro più a sinistra o più a destra, essere libero di poter uscire da una macchina, non essere libero di uscire da una macchina che sta esplodendo, ecco, tutto questo fa la differenza, e quindi quei 28 secondi sono così banalmente, secondo me, ci ricordano che anche se non corriamo in Formula 1 è tutto così clamorosamente fragile. Sì. Sono immagini bellissime, potentissime, la loro forza. Beh, sono un miracolo in diretta TV, no? Esatto, sono un miracolo in diretta TV, e ancora una volta appunto ci raccontano quanto è tutto fragile, quanto è tutto lì. Poi è ovvio che la vita di un pilota di Formula 1 è un po' diversa da quella di un... Sì, però spesso la vita di tutti noi è questione di millimetri o di 28 secondi, però, no? Però, di 21 grammi, cioè è sempre quella cosa lì. Io mi sono scoperto davvero svuotato, cioè... Quando ho visto quella roba lì ho detto vabbè, adesso in questi giorni fate di me quello che volete, non ho più la forza. Allora, invece ti dico una cosa, ti racconto una cosa. Ieri mattina ho incontrato virtualmente in altra sede, cioè su Sky, Nando Orsi, e mi sono dimenticato di dirgli due cose. Ciao Nando. Ciao, buongiorno a tutti. Ciao Pier. No, la prima che volevo dirti ieri mattina è che ogni volta che ti vedo sembri sempre più giovane di quando ti vedevo giocare. Vai su, No, volevo sapere se mi mandi una cassa d'acqua, quella che bevi tu e che beve anche Ibra. Io bevo una lauretana, guarda, io quindi te la dico. Ah no, ho fatto una pubblicità, scusami. Comunque mi sa che bevi dalla stessa bottiglia. La seconda cosa che invece ti volevo chiedere è se anche tu, come Tacconi, ti senti parte di un'opera d'arte. Per quel no, l'ho cominciata io sta cosa e adesso l'hanno ripresa un po' tutti quanti, mi devono dare i diritti d'autore di questa cosa, adesso sono tutti quanti orgogliosi di aver fatto, mentre ed è proprio così, perché io l'ho detto proprio di getto, quando è morto io due lacrime l'ho tirate giù, perché quando io ero in televisione, ero a vedere la televisione su Rai 1 e il conduttore di La Vita in Diretta l'ha detta alle 5. Sì. E ti giuro, proprio di getto, di botto, mi sono scese delle lacrime, perché mi sono commosso, perché quando muore una persona così, soprattutto persone del tuo lavoro, così come è morto per esempio Ernesto Galli, il portiere del Vicenza, mi sento parte integrante proprio del dolore delle persone. E quindi poi dopo di getto ho detto che ero orgoglioso di aver preso gol da un giocatore così. Certo, è ovvio che il bagaglio professionale che io ho avuto avendo giocato contro Maradona, io penso che non sia soltanto il mio, penso sia quello anche di tutti i giocatori che ci hanno giocato contro, perché ognuno ha un ricordo, perché lui non era stato mai banale, ecco perché. Sì, come ho detto ieri mattina, poi abbiamo scoperto la frase era di Rosa, non mi importa quello che ha fatto della sua vita, mi importa quello che ha fatto della mia, però vorrei andare da un'altra parte, cioè che è una prosecuzione di questo discorso, Piera. La notte di Napoli è andata come voleva la letteratura, no? Divisa argentina, gigantesca messa pagana nel vuoto, in quella cattedrale deserta, Roma travolta, gol magnifici, mi viene voglia di dire che anche la Roma è parte di questo piccolo quadro. Sì, la Roma perde fragolosamente una partita nella quale il Napoli domina, gioca molto meglio, e anche se poi in realtà la partita ha avuto delle fasi, cioè poteva anche girare in maniera diversa, però è girata così perché il Napoli è stato nettamente migliore. È stata per Napoli dal punto di vista calcistico una notte perfetta, che ha mostrato la potenzialità di questa squadra, che non va dimenticata, resta al netto della discussione su Juve-Napoli, sul punto di penalizzazione. Se guardiamo la prestazione, perché la prestazione è quella che noi dobbiamo guardare, questa è una squadra che oggi sarebbe almeno 5 dal Milan con una partita in meno, ovviamente poi tutta da giocare, magari la perdeva, non lo so, però voglio dire, questo è quello che ci dice il campo, al di là poi della burocrazia giusta della classifica. Quindi siccome siamo dopo 9 giornate, dobbiamo cercare di interpretare, di capire quello che verrà nelle prossime 29, perché gli spazi di manovra ci sono per migliorare o per peggiorare da parte di tutte le squadre. Io credo che questo sia interessante, e Napoli ieri ha mostrato il suo lato migliore, quello più feroce, quello che si era visto in qualche circostanza quest'anno e che aveva, anzi, che si era visto spesso quest'anno. La domanda è perché ogni tanto lo perde, questa è la domanda. Sì, lo perde ogni tanto, forse perché ancora ha una sua giovinezza, è una squadra che tende, giovinezza parlo di testa più che altro, è una squadra che in qualche partita tende, le due partite che ha perso sono quelle col Sassuolo e col Milan. Col Sassuolo per 60 minuti ha giocato molto bene, poi si è aperto, il Sassuolo ha fatto una partita fantastica. E col Milan ha pagato, secondo me, soprattutto delle ingenuità, è un fattore Ibra che in quella partita lì è stato veramente devastante. Quindi una sottolineatura. Posso fare una sottolineatura? Perché, perché ho sentito Gattuso dire oggi ognuno rincorreva il compagno, battevano le mani, tutto quanto. Sì, è vero, però a me sembra che Gattuso sminuisca, perché lui ha preparato la partita in modo diverso, ha giocato con 3 centrocampisti invece che con 2. Bravissimo. Ha messo la partita nel modo giusto, perché lui ha tutti i giocatori, i due centrocampisti, sia Fabian che Gellini, sono verticali, quindi sono persone che sono giocatori che vanno dentro, e se tu li metti 20 metri più avanti e hanno 10 metri soltanto, 15 metri per andare avanti. Invece Zelischi, che è un giocatore meraviglioso secondo me, che ancora non ha capito quali sono le sue potenzialità, è un giocatore che se parte da dietro ti mette in difficoltà, e quindi Mertens si è divertito a fare quello che vuole, e c'è più spazio lì in mezzo, no? fra le linee. Secondo me è stato lì dove lui ha vinto la partita. Ma non a caso sei un allenatore, oltre ad essere stato un calciatore di Serie A, perché questo vuol dire anche che quella col Milan non l'aveva disegnata bene, ci è capitato di dire, con 2 centrocampisti, con il solo Bakayoko a provare a chiudere tutti i buchi, esatto, e a supportare un peso offensivo eccessivo. Ha fatto una gran partita Demme, perché quello è il suo ruolo. Sì. Quando c'ha due giocatori come intermedi che poi gli coprono le spalle, no? Poi gli coprono Rino si sminuisce spesso, no? È una sua strategia di comunicazione. Qualche volta secondo me esagera pure un po', però evidentemente lo fa perché ha la squadra come unico pensiero in testa e l'obiettivo comune come unico pensiero in testa. Ma Gattuso in questi mesi è cresciuto tantissimo. Voglio allargare il discorso, ha anche cambiato, perché poi lui lo riconosce sempre con grande onestà intellettuale, ha anche cambiato alcune sue idee, ha cominciato a giocare un calcio sicuramente più diretto, meno di possesso, quindi insomma sta imparando delle cose e sta mettendo in pratica delle conoscenze, sta mostrando la capacità secondo me degli allenatori veri, degli allenatori grandi, che ha la capacità di cambiare in corsa, la capacità di adattarsi alle situazioni, ai momenti, quindi secondo me il risultato è straordinario. La partita ieri è una partita simbolo. Aggiungo, visto che se ne è parlato molto in queste ore giustamente, la frase su Diego, cioè chiaramente poi Gattuso nelle condizioni diciamo di popolarità a Napoli, giustamente, per poter dire quella cosa nella maniera più chiara, senza che in questa strana società dove spesso le cose vengono poi deformate, vengono, no, c'è il rischio sempre di essere travisati, ma dice quella cosa nella maniera assolutamente perfetta, che è la cosa che tutti noi pensiamo. Io quando vedo le file e gli assembramenti, con tutto rispetto per i centri commerciali, ci mancherebbe altro, per i negozi lì, per una cosa che equivale veramente al lutto, alla perdita quasi di un familiare o di un parente, come nel caso di Diego Armando Maradona, soprattutto per chi a Napoli lo ha vissuto, io mi emoziono, no? mi viene malinconia, mi sembra tutto meravigliosamente tenero, però poi so anche che abbiamo un virus in questo periodo e che con questo virus dobbiamo fare i conti, quindi come dicevo l'altro giorno, l'augurio è che pur nel trasporto, nel dolore per Maradona, ci sia la lucidità di capire la mascherina, le distanze, di capire che purtroppo questo virus è ancora in mezzo a noi. No, poi... Gattuso questa cosa ieri l'ha detta nella maniera più perfetta possibile, con quel bilanciamento che è ovvio, poi è la cosa più semplice del mondo, è come se ti fosse veramente mancato un parente, uno di casa, perché questo è Maradona per tutti quelli che amano il calcio e soprattutto a Napoli. Ma al tempo stesso però devi stare attento, devi mantenere delle precauzioni, certo, delle attenzioni. E se lo dice Gattuso in quella maniera, fai bene, il messaggio è più o meno perfetto. Altro messaggio, vi chiedo un'opinione, è chiaro che è una questione solo di simbologia. Nando, il 10 a Insigne, lo daresti a Insigne o a un altro giocatore o lo metteresti in bacheca a Napoli? No, lo metterei in bacheca. Lo metterei in bacheca, ma non perché dopo una maglia che comincia a pesare. Perché soprattutto a Napoli è una maglia che non può essere più indossata da nessuno, perché non ci sarà un altro Maradona, quindi mi sembra giusto, ma io penso che siano gli stessi giocatori, lo stesso Insigne, a pensare che questa maglia debba essere messa lì tutte le domeniche in bella vista quando entrano le squadre in campo. La penso come te, a Napoli non credo non possa essere diversamente da così, anche se ad esempio oggi leggevo Luigi Garlando sulla Gazzetta, dice no, ma a Diego sarebbe piaciuto vedere riempita con un cuore, magari quello di Insigne, vederlo riempito con un altro giocatore, però credo sarebbe davvero troppo pesante per chiunque. Esatto. No, secondo me l'aspetto vero, fondamentale, è come sempre trasformare l'insegnamento in qualcosa che vive. Allora, Diego ha insegnato tante cose. Credo che ai tifosi del Napoli, più in generale il Napoli, abbia fatto capire che si può vincere, che non era scontato prima dell'arrivo di Diego, che si può vincere, che si può competere, che con un mix di fantasia e organizzazione, ovviamente con suo talento era tutto più facile, ma si può competere a grandi traguardi. Quindi il modo migliore per onorare la memoria di Maradona è continuare a lottare, è continuare a crescere e darsi delle regole, perché quel Napoli lì aveva delle regole per combattere contro il grande Milan di Arrigo Sacchi o con l'Inter di Trapattoni, cioè stiamo parlando di anni leggendari e le regole c'erano, anche se poi noi siamo sempre lì a sottolineare l'aspetto più strettamente fantasioso e talentuoso della vita di Maradona e di quella squadra lì, ma c'erano le regole, c'era la disciplina, c'era il saper stare in campo, quindi questo mix fantastico deve essere una spinta a Napoli per andare avanti. Va benissimo che questo stadio si chiami stadio Diego Armando Maradona, penso che siamo tutti d'accordo, ma sarebbe bello che il stadio fosse ancora più bello, esatto, fosse ancora più moderno, esatto, esatto. Ecco, cioè deve essere secondo me una memoria, mettessero una prima pietra vera di uno stadio vero, nuovo, certo, non sulla carta, non in comune, nelle aule della regione, eccetera eccetera, una prima pietra di uno stadio nuovo, vero. Diego ha fatto capire ai napoletani che potevano vincere, sì, il campionato, e potevano competere. Bravo, esatto, il senso quello, il modo migliore per onorare la memoria è combattere, lottare in maniera leale, ma in maniera feroce, per continuare a poter vincere o quantomeno trovarsi. Sì. Questo è il modo migliore per onorare la vittoria di la vita di Diego Armando Maradona. Sì, sì. Non ci siano dubbi da questo punto di vista. Senti, vorrei tornare allo stregone Nando Orsi, perché c'è un'altra squadra che beve la pozione magica, non solo tu e Ibra, ed è il Milan. Milan. No? Mi sembra che abbia trovato l'acqua santa della continuità, ed è l'unica squadra ad averla. Sì. Sì, perché il Milan ha un gioco, e con Ibra ha vinto, mi sembra, le partite che non c'è stato. Quindi il Milan sono 21-22 partite che non perde e ne vince tante, ma qualcuno l'ha vinta pure con Ibra. Quindi vuol dire che è una squadra, si appoggia su di lui, ma quando non c'è lui gli rimane un po' di, come si dice, di Ibrahimovic dentro la testa. Sì. Perché uno a 39 anni che sta in tribuna e fa il tifo sfrenato come fa lui, vuol dire che questa è una squadra che in questo momento è un gruppo importante che gioca bene. Sì. Poi non c'è Pioli in panchina, poi non c'è neanche Murelli, non c'era nessuno ieri, eppure per due partite il Milan a Lille e ieri, anche se le squadre non erano meravigliose, eccezionali, però dà una dimostrazione di sicurezza, di essere una squadra, che ognuno giochi per l'altro, e quindi in questo momento va bene. Poi dopo vediamo col proseguo del campionato, ma insomma a me sembra che anche negli altri campionati, in questa annata di tragedia, tutti gli altri campionati siano un po' particolari. Vedo in Spagna, sì, sì, che il Barcellona ha 10 punti, Real Madrid perde in casa, sì, e in Inghilterra il Tottenham è primo, il Liverpool, cioè l'unico posto è in Germania, dove il Bayern Monaco, cioè, sì, è primo ma non di tanto, Paris Saint Germain è primo ma non di tanto, insomma, esatto. Sono lì che se la giocano un po' tutte. Volevo sottolineare l'ultima cosa, che secondo me il pubblico, cioè gli stati vuoti sono una parte importante di questi risultati. Sì, sì, ce ne siamo resi conto strada facendo. Aumentano l'equilibrio, su questo non c'è dubbio. Io del Milan volevo sottolineare i gregari, tra virgolette, cioè giocatori che sono diventati, penso a Calabria, che è diventato un giocatore ormai inamovibile, ieri ha fatto una partita pazzesca. Penso a Kier, che è un giocatore completamente rigenerato. Kier, forse... veramente. Kier, ecco, guarda, no? Veramente. È clamoroso, no? Ma c'è chi è cresciuto perché... come Salemakers, insomma, fai fatica a trovare in questo momento nel Milan qualcosa che non... Ma lo sai che se c'era Suso in questa squadra, invece giocava bene anche Suso. Bah. Io qualche dubbio ce l'ho, per e me lo tengo anche, ragazzi miei. Sì, certo, quelli, sai, quando c'è quello che ha grande personalità, anche chi ne ha poca di personalità riesce comunque a brillare. E poi anche lì, scusa, la telefonata, la videochiamata a Pioli a fine partita. Ora è vero che noi giornalisti ci innamoriamo un po' delle immagini ad effetto, quindi io confesso, Robin. Però una roba del genere non è che la fai perché c'è l'ufficio stampa che ti dice di farla. No, la fai una perché roba c'hai voglia. La fai spontaneamente. Se la fai spontaneamente al 90° e 1 secondo dopo il fischio dell'arbitro di questa partita, questo ti fa capire che unità di intenti c'è. Chiaro. Nando ha giocato a grandi livelli per tantissimi anni e penso che potrà confermare che poi alla fine la differenza la fa con questi dettagli, perché nessuno vuole perdere, non c'è nessuno che non sia professionista, ma la ferocia agonistica, l'unità, la compattezza, l'amore che ci può essere all'interno di uno spogliatoio, a volte anche l'amore, anche l'amore controverso, anche l'amore dialettico, anche l'amore che diventa rivalità, però insomma, guarda, quell'energia lì fa la differenza. Come in questo momento ce l'ha. Mi è piaciuto molto quello che ha detto ieri Giovanni Capuano: al Milan funziona tutto, comprese le linee, nello spogliatoio di San Siro non c'è una nuvola e funziona tutto perfettamente, compreso il wifi. Ciao Nando, ti saluto, grazie. Ciao ragazzi, buona giornata, sempre un piacere. Highlander Nando Orsi. Allora, dobbiamo fermarci un istante, ma torniamo immediatamente dopo. Nella seconda parte poi parleremo, daremo un'occhiata in casa di Juventus, perché c'è un articolo dell'amico Navarozzi che ha fatto molto rumore. Torneremo sul Milan, sul Napoli, e parleremo dell'Inter. Beh, io vi aspetto però, 800 24 00 24, tra pochissimo. Ha più bisogno la Juve di Cristiano Ronaldo che il Milan di Ibrahimovic. Tutti convocati, anche su WhatsApp. Tutti convocati, anche su WhatsApp. Lasciate i vostri messaggi vocali al 349 238 6666. 349 238 6666. Tutti convocati. Convocati. Prima o poi perde, sì, ma prima o poi torna dove deve stare, sì, ma prima o poi vanno avanti gli altri. Intanto, noi sappiamo che il nostro scudetto è il quarto posto, però siamo primi davanti a gente che può giocare con Ronaldo, Dybala, Lukaku, Lautaro, ciaone. Cosa deve fare ancora il Milan per essere considerato una squadra da scudetto, visto che viene snobbato da tutte le trasmissioni televisive? Le trasmissioni televisive non lo so, noi non lo snobbiamo. Io continuo a pensare che la grande notizia sia in questo momento per il Milan, razionalmente, il più 6 dalla Roma e il più 9 su Atalanta e Lazio, che sono chiamate fuori invece, credo, dalla corsa a scudetto. Però è evidente che vai avanti così e poi vedi dove arrivi. E soprattutto, secondo me, c'è una... Io credo che Pioli sia contento se il Milan viene un po' snobbato un altro po'. Cioè, io capisco ovviamente l'entusiasmo dei tifosi, ma credo che sia un vantaggio per il Milan in questo momento essere un po' a fari spenti, no? Nei limiti del possibile. Penso che se continua così diventerà sempre più difficile avere i fari spenti, perché se li merita, insomma. Io credo che però in questo momento sia un vantaggio, lo dico sinceramente. In questo momento è sicuramente un vantaggio, perché, o perlomeno lo è stato in questa primissima parte della stagione, avere qualche pressione in meno rispetto alle rivali, rispetto alla Juve, rispetto all'Inter soprattutto, no? Uh-huh. E detto questo, se va avanti così e ci sono ottime probabilità, può... Beh, ragazzi, penso che questo stato, come è stato sottolineato, cioè, il Milan ha anche un vantaggio, cioè è la più felice delle squadre di testa. Non mi ricordo più chi l'ha scritto oggi, l'ho letto da qualche parte, però è l'unica che gioca, forse Paolo Condò, è l'unica che gioca felice. Le altre hanno le loro menate, i loro pensieri, le loro ansie, i loro accerchiamenti, le loro preoccupazioni, le loro assenze, tutte queste cose qui. Il Milan in questo momento, lì davanti, è quella più, certamente più spensierata. Ciro Caserta, buongiorno. Buongiorno a voi tutti, grazie per avermi dato questa possibilità. A lei. Ovviamente il tema è Maradona, sono un tifoso del Napoli e mi perdonerete se magari leggerete emozione, ma io voglio parlare di quello che è stato Maradona brevissimamente, e vorrei dare una lettura che vada al di là del calcio per quanto riguarda quella passione smisurata che noi napoletani abbiamo dato per Maradona. Io ci voglio leggere, perché credo che questa sia una chiave di lettura. Davvero una voglia di riscatto da parte di un popolo che praticamente ha visto in Maradona più finalmente la possibilità di una rivincita, perché alla fine il calcio è anche la trasposizione di confronti che vanno al di là del rettangolo di gioco, il confronto, certo, tra mondi, tra città. E allora se quella grande passione, che è voglia di riscatto, la si incanalasse, forse c'è la possibilità davvero per fare altro a Napoli e poi nel sud. Io non so se questo è in dubbio, Ciro. No, è stato chiarissimo, ed è un pensiero diffuso e comune. Poi incanalarla, vero, ci vuole anche uno come Maradona, con il suo carisma, che arriva lì e disegna il canale. Poi vediamo. Guarda, è più o meno, con altre parole, quello che dicevo qualche minuto fa. Cioè, secondo me il modo migliore per onorare la memoria straordinaria di quest'uomo straordinario è fare le cose, crescere, lottare, vincere, lavorare, produrre. Sono cose fantastiche che che Napoli sa fare, che Napoli ha sempre fatto e che secondo me però a livello non soltanto sportivo sono importanti da riaffermare, quindi assolutamente sì, io credo che io adoro Maradona in campo, ma l'ho detto, adoro soprattutto Maradona fuori, che non vuol dire che non abbia commesso degli errori, non abbia avuto dei vizi, li sappiamo benissimo, ma ridurre Maradona all'aspetto strettamente calcistico come fanno i suoi detrattori o comunque quelli a cui sta un po' meno simpatico, per me è inaccettabile, perché la grandezza di Maradona è stata proprio questa, certo. È stato aver scelto la strada difficile, è stato essere dalla parte del popolo, è stato portare l'Argentina del dopo dittatura e, come diceva Maurizio Mazzo l'altro giorno, la Napoli del dopo terremoto a vincere, a lottare, a creare un senso di identità, di appartenenza. Questa cosa è meravigliosa. Vabbè, ma dai, guarda che comunque quindi... è stato anche riconosciuto, ma anche all'interno dello stesso recinto dello sport, perché quello che hanno fatto l'altro giorno gli All Blacks con prima dell'H contro l'Argentina, guarda che è una cosa che gli All Blacks non hanno mai fatto, credo, per nessun altro personaggio sportivo, perché quella maglia All Blacks senza numero, perché nel rugby il numero non si usa, quella maglia, secondo la loro letteratura, la loro leggenda e la loro filosofia, non appartiene ai giocatori che le indossano, ma appartiene al popolo neozelandese. Vabbè, ma qui ci perdiamo un sacco anche in filosofia e un po' di tristezza. Torniamo dopo la borsa invece con altri temi e con voi. 800 24 00 24. Ma qualcuno vuole ringraziare a Boban per questo Milan o è tutto il merito di Gazidis? Per scendere in campo in diretta con tutti i convocati, chiamateci 800 24 00 24. Tutti convocati. Tutti convocati. Bravo Orsi. È quello che ho pensato anche io quando ho visto Ibram in tribuna. Che non è da tutti andare in tribuna quando uno se ne potrebbe stare tranquillamente a casa. Sì, tifoso della Juve, va benissimo l'anno di transizione, ma con questa guida tecnica ho paura che si rischi addirittura al quarto posto. Bisogna che qua comincino a volare schiaffi nello spogliatoio. Il problema della Juve è soprattutto caratteriale. In 90 minuti non hanno preso una seconda palla. Una squadra così è spenta, come il suo allenatore in panchina. Mi sembra un rilievo molto duro quest'ultimo di un ascoltatore via WhatsApp 349-238-6666, tanto che non sono così convinto di condividerlo. Mi correggo e faccio ammenda con i tanti maestrini della penna rossa che mi dicono: nel rugby i numeri si usano, sì, non si usano i nomi, ho sbagliato, mi sono confuso, era chiaro, chiedo perdono e non lo faccio più, giuro. Ciao Max Nerozzi. Ciao, sei stato giudicato dal Tribunale del Popolo. Sì, sì, sì, ma va benissimo, sì, sì. Bacchettato su dita con un milione di altre volte. Senti, con Paolo Tomaselli oggi sul Corriere della Sera scrive un articolo che ha fatto abbastanza rumore nel mondo bianconero. Titolo: Pirlo, luna di miele finita e i giocatori sono confusi. Abbiamo sentito anche qualche WhatsApp. Sì, va lì. L'unica cosa che non mi torna è questa. Cioè, può esserci un problema di comunicazione. Io credo però che se c'è una cosa che non esiste alla Juventus sia un problema di gradimento del gruppo squadra nei confronti dell'allenatore, giusto? Hai ragione. Io non penso che, anzi non penso, da quel che mi risulta, che non sono mie opinioni ma quel che abbiamo raccolto in questi qualche giorno di lavoro, che non sia un problema di scintilla, perché di scintilla si parla con Sarri, si ricordi, ma del fuoco in campo, di tutto quel che ne consegue. E tu parli di comunicazione, sì, cioè la grande sfida di tutti gli allenatori è un po' quella dei grandi romanzieri, mi viene da dire. Cioè devi trovare il modo di comunicare, nel caso della scrittura, di scrivere le tue idee. E Pirlo penso che non sia ancora riuscito. Ovviamente questa metafora non è mia, ma l'ho rubata a David Foster Wallace, che era un genio e anche un bravo tennista. Però rende il concetto. cioè Pirlo è stato preso con entusiasmo dei giocatori, non solo perché è un ex compagno, ma ricorderete tutti la sua tesi, palleggio, dominio del gioco, pressing alto, cioè chi non sarebbe contento, però da quel che è emerso in queste prime giornate, o comunque dai racconti che ne fanno i giocatori, c'è evidentemente un problema di comunicazione, cioè l'allenatore deve convincere i giocatori a fare quello che lui ha in testa, cioè portarlo sul campo, e penso sia una cosa fondamentale in tutte le persone che allenano. Aggiungo e ti do la parola e la giriamo a Pardo. Non sono sorpreso, perché insomma Pirlo non aveva mai allenato, cioè inutile che ci nascondiamo, quindi ci sta che non abbia trovato ancora il suo stile, il suo canone, chiamiamolo come ci pare. Poi secondo me ci vuole anche quelli con la personalità necessaria per tradurre il detto, magari anche il non detto, sul campo. Mi sembra che la Juventus manchi personalità, manchino condottieri sul campo, soprattutto se mancano Chiellini, Bonucci e a maggior ragione Cristiano Ronaldo. Pierluigi. Sì, soprattutto Cristiano Ronaldo. Stando su Foster Wallace, non è solo il tennis, ma anche il calcio è un'esperienza religiosa. La Juve di questo inizio di stagione, diciamo, di religioso, di esoterico, ha ben poco. È una squadra che gioca un calcio di poca ispirazione, questa è la verità. È un cantiere. Ci sono state, secondo me, alcune scelte un po' spericolate da parte di Pirlo, l'ho detto altre volte. Secondo me non si è semplificato la vita, non ha seguito, secondo me, perché da fuori siamo bravi tutti, non ha seguito, secondo me, la strada, diciamo, di grande prudenza che spesso i nuovi allenatori fanno quando arrivano in un ambiente, e poi qui stiamo parlando veramente di un debuttante assoluto, sicuramente di un genio del calcio, perché Pirlo, tutti quelli che l'hanno conosciuto e l'hanno visto giocare sanno che è stato un genio da calciatore, ma ovviamente da allenatore è tutto da verificare. Quindi in alcune circostanze, secondo me, si è un po' complicato la vita, ha dato quasi la sensazione di voler stupire, fin qui non gli è andata particolarmente bene. Poi la scelta di appunto la gestione di Cristiano Ronaldo, lasciarlo fuori a Benevento, continuo a non capirla, cioè, io non la capisco più che altro perché la Juve di questo momento non è nella condizione di potersi permettere Ronaldo fuori per scelta, cioè piuttosto te lo porti in panchina e lo fa entrare a mezz'ora dalla fine, se è in condizione di giocare. Abbiamo già visto Cesena. È successo così a Cesena, come dice Pierre, è successo così con lo Spezia. Se ti ricordi, entrò nel mondo. Esatto. Quando è rientrato, certo. Ora non so che magari era stanco, magari non so che cosa si sono detti. Certamente hanno deciso insieme lui e Pirlo questa cosa. Vista da fuori continua a sembrarmi incomprensibile. Poi sposo parola per parola quanto ha detto Pierluigi Pardo: in alcuni casi è stato estremo, è stato forse troppo visionario. È anche vero che, a differenza ad esempio di Allegri nei confronti di Conte, non aveva esattamente un solco tracciato da seguire, doveva spaccare tutto e poi ricostruire con Sarri, a cominciare dai rapporti. Ma non credo che i rapporti siano un problema. La scena senza Ronaldo a Benevento, onestamente, è spiegabile, dai. Girala come vuoi. Scusa, caro, però è vero, però guarda, era successo anche a Allegri, se tu ti ricordi. Forse si può contestare il momento storico di questa Juve, però se tu ti ricordi, Ronaldo, anche con Allegri, alcune giornate di pausa se ne era concordate. Cioè, parliamoci chiaro, era stato fatto da Allegri perché era Ronaldo, ma lui lo spiegò anche, quindi non ci vedo nulla di strano che lo faccia anche Pirlo. Certo, si può contestare il fatto che questa Juve qua è diversa da quella che andava col pilota automatico. Sì, e anche il fatto che può anche saltare magari la partita di Champions inutile del mercoledì con la Dinamo Kiev e magari giocare a Benevento, dove sei lì che comunque cerchi una strada, cerchi di rimanere in scia, è un contesto un po' più impegnativo. Sì, appunto, cioè, poi per carità, da fuori è facile ed è anche... E ci mancano anche gli elementi. Ci mancano gli elementi ed è possibile anche che la Juve poi possa decollare da qui a qualche settimana. Cioè, mai come in un anno complesso da interpretare come questo, è facile fare delle ipotesi. E la Juve sicuramente ha il talento per poter decollare, anche se alcuni difetti strutturali probabilmente non sono stati risolti, nel senso che la qualità del centrocampo, onestamente, secondo me è così. E poi è una squadra che ha avuto una riavanza di stagione, tutta una serie di problemi di natura fisica che non vanno assolutamente sottovalutati. Nella famosa partita pareggiata all'ultimo minuto contro la Lazio Olimpico, comunque mancavano 5 titolari più Cristiano Ronaldo che è uscito al 65esimo. Però ecco, cioè, la sensazione è che questo sia uno di quei momenti in cui la grande squadra sa che è un po' in emergenza, sa che è inespressa, e insomma la grande squadra in qualche modo le partite le porta a casa. Bravo, esatto. Le porta a casa, esatto. E quindi le porta a casa, poi punti, magari male, magari male, le porta a casa, poi vediamo, poi vediamo. Francesco da Venezia risponde Max Nerozzi e poi cambiamo, poi mandiamo il traffico. Francesco, prego. Buongiorno, ciao a tutti e grazie per la convocazione. A lei. Due cose volevo dire, ma allora squadra in cantiere, parlo della Juve, però qualificata con due turni di anticipo alla Champions League agli ottavi e comunque quarta. E poi seconda cosa, se facciamo un confronto tra Pirlo, neo allenatore, nessuna esperienza, ripeto, quarto posto, già due turni di anticipo per la qualificazione agli ottavi rispetto ad altri allenatori, ne dico uno a caso, Conte, con molta esperienza, con una squadra come l'Inter dove a livello tattico, tecnico non ha niente da invidiare, anzi forse sarà anche superiore, e però mi sembra che, voglio dire, se c'è da bocciare un allenatore forse sarebbe Conte e non Pirlo, questa è la mia idea. Max, rispondi tu. Sulla Champions sono abbastanza d'accordo, proprio qua da voi, se ti ricordi, elogiammo il 2-0 con cui esordì Pirlo, perché insomma, comunque alla fine il risultato che aveva preso su come onestamente la partita della settimana scorsa ha lasciato un po' a desiderare molto. E dopodiché vediamo, però certo in Champions giornata d'anticipo, chapeau. L'Inter secondo me ha avuto anche altri avversari e altri problemi, e in campionato mi sembra piuttosto, cioè l'ultima, faccio un esempio, a Sassuolo va bene colpi di fortuna, ma è stato pianato De Zerbi che stava giocando un gran campionato, Conte ha fatto una partita pazzesca e c'è avuto una reazione che non ho visto nella Juve, che è vero aveva vinto, ma come aveva vinto l'ultima in casa. No, Postina, certo. Su quello che diceva Pier prima, su immagini di miglioramento, io sono convinto anch'io che la Juve ne abbia di spaventosi, cioè sta giocando abbastanza male ed è il sesto attacco. Non esiste che una squadra come la Juve sia il sesto attacco del campionato. Assolutamente. Cioè, con una squadra che ha quegli attaccanti, ha quelle mezze punte, non so come vuoi chiamare, Dybala, Kulusevski, Chiesa, 18 gol, onestamente non penso che continuerà con questo ritmo. No, è chiaro Max, margini di crescita enormi per la Juventus ma anche per l'Inter, il processo di crescita secondo me fin qui non è ancora cominciato, quindi abbiamo detto tante volte, vabbè, Juventus con Cagliari ha fatto un passo avanti in quella partita, ha fatto un passo avanti in quell'altro, uno indietro. Secondo me non c'è ancora bene un percorso, come piacerebbe dire a Conte. Grazie Max Nerozzi, ci fermiamo per il traffico, torniamo subito. Lode e stima a Carlo Genta, che ha sempre difeso il grande Max Allegri. Adesso ci rendiamo conto di cosa era. Siete tutti convocati anche sui social. Anche sui social. Scriveteci a @tutticonvocati su Twitter o cercate la nostra pagina Tutti Convocati Radio 24 su Facebook. Tutti convocati. Tutti convocati. Buongiorno a tutti, vi prego, sono Fabio Milanista. Non parlate ancora un po' meno del Milan, perché se iniziate a parlare del Milan, ora che dopo andremo male. Ciao a tutti. È la mia teoria questa. Com'è? La tua teoria. No, vabbè, non è che è così esoterica, però insomma è chiaro che parlarne poco aiuta a restare, no? Sì, no, ma restare poco, essere felici, essere in testa alla classifica e stare sotto traccia penso sia la condizione migliore in assoluto. Certo. Marco Marsullo, buongiorno. Ciao, buongiorno a tutti. Ci sbagliamo? No, di solito funziona. Io poi sono anche napoletano, quindi la scaramanzia. Esatto, ma ti ho chiamato apposta, napoletano, maradoniano e milanista. Sì, cioè è un trittico strano, però giusto, con un giusto equilibrio. No, io penso che bisogna parlare poco del Milan, anche se è inevitabile, perché sul lungo periodo questa squadra, non, questa è la scaramanzia, non credo possa vincere lo scudetto. Però è la squadra che gioca meglio, la squadra che ha il miglior approccio difensivo, è la squadra che è il giocatore più dominante della Serie A. Uh-huh. Quindi è una commissione strana, diciamo che ce lo godiamo, ma sì, parliamone poco. Senti, ma tu guardi più al più 5 sull'Inter e sul Sassuolo naturalmente, e col fatto che le milanesi tornano in testa alla classifica 9 anni dopo eccetera eccetera, queste cose qui, o al fatto che più 6 sulla Roma, più 9 sull'Atalanta e la Lazio? Allora, in questo momento io guardo più i punti sulla Champions chiaramente, e E guardo sempre le condizioni di Ibrahimovic, quello è il nodo, anche se il Milan senza Ibra gioca bene comunque, però è chiaro che avere Ibrahimovic in campo dà completamente un'altra prospettiva, con un Ibrahimovic che le riesce a giocare quasi tutte, anche in proiezione del discorso Europa League, che è quello importante per il Milan, non è da sottovalutare, diciamo che si può, il fatto è che le altre stanno andando lente. Questo è il punto, non c'è ancora una squadra che sta tenendo il passo del Milan, che ha una media punti altissima, ma non c'è una squadra che, dalla quale guardarsi in questo momento per dire questa è la squadra che dominerà il campionato, perché per la Juve è veramente molto indietro. Per forza, Pier, il Milan ha quella cosa che dicevamo prima con Nando Orsi, quella pozione magica che si chiama continuità, le altre no. Mi sembra un libro scritto bene, Pierluigi, questo Milan. Letterario anche il fatto che in quest'anno nero sia così magico per il diavolo, se vogliamo proprio essere lirici. Sì, questa veramente è uscita alla grande, no, ma al di là di questo, che se vuoi ci sta, è evidente che insomma qui c'è un insieme di tante piccole grandi cose fatte tutte molto bene. Prima citavo Kier e Calabria, proprio perché è facile parlare di Ibra, si parla ovviamente di Ibra, di Donnarumma, ma questa è una squadra che è cresciuta attorno a una serie di giocatori sicuramente meno sponsorizzati, che sì, è un giocatore che fa girare alla grande la squadra. Bennacer ieri aveva il problema all'adduttore, ma il suo lo sta facendo. Salemakers neanche a parlarne. Insomma, ci sono 4-5 leader assoluti che sono, secondo me, oltre a Ibra, ovviamente Donnarumma, ovviamente Teo, Romagnoli, eccetera. E poi hai una serie di giocatori che sono apparentemente dei gregari, o comunque qualcosa di più di semplici gregari, che stanno facendo cose straordinarie. C'è un po' di atalantismo in questo Milan. C'è molto talentismo, mi piace questa espressione, c'è molto talentismo, però io a Marzullo, che è milanista ma napoletano, ieri ho citato, facendo una telecronaca del Milan, il 1° maggio dell'88, non so se Marzullo fosse nato oppure no, ma insomma quegli anni lì ci ricordano una rivalità che veramente era l'espressione più bella, più alta, perché l'applauso dei tifosi del Napoli dopo quella partita vinta dal Milan, l'applauso degli avversari, rimane una delle cose più belle che in una partita a scudetto, non dimentichiamocelo, non era l'amichevole di fine anno, era una partita calcisticamente vita o morte, persa, finì fra gli applausi, c'era tutto Maradona in quello, c'era la lealtà di Maradona, c'era lo spirito di lotta, di dire non voglio vedere una bandiera del Milan prima, ma poi di essere anche il primo che andava ad abbracciare gli avversari, cioè c'è veramente lo spirito e l'essenza dello sport in questa cosa qui. Perfetto. E quindi insomma non possono chiedere a Marzullo, da napoletano, anche se è milanista, ma cambia poco, che cosa è stato Maradona per lui, che cosa deve continuare a essere Maradona per la città. Prima insomma, si parlava dell'esempio e dell'energia che deve continuare, l'ispirazione che deve continuare a dare nel calcio e anche fuori dal calcio. Marco? Sono d'accordo con Pierre, assolutamente. Cioè, Maradona è... Io ho scritto svariate cose sui social per il Corriere, ma non ho mai risposto a nessun detrattore, non ho mai dato voce a nessuna voce di riflesso che parlasse male dell'uomo Diego, perché Maradona, chi l'ha conosciuto, i compagni, i collaboratori, gli avversari, ne parlano come ne ha parlato ora Pierre. Maradona non è solo il grande calciatore, Maradona è anche il grande uomo che ha fatto male solo a se stesso, questa è la verità, come chiunque di noi ha fatto male a se stesso, chiunque di noi ha tradito una compagna, spero proprio non tutti, però dico chiunque di noi è stato la versione peggiore di se stesso, chiunque di noi non è stato sempre al top. Maradona è stato questo, quindi Maradona è però la faccia. Caro Marco, se non fosse così non sarebbe uno di noi, starebbe da un'altra parte, se non fosse come hai detto tu. Grazie Marco Marsullo, a te Pierluigi Pardo, ovviamente ci sentiamo domani alle 2. Claudio Schiattone in redazione, Gianmarco Ferronati in regia, ciao a tutti. Ragazzi, ce l'abbiamo fatta! Ci vediamo domani, enjoy! Saluti!